rotto i coglioni con questo programmino. Perché è un programma di merda, dai, questa zanzarina, mo ti spruzzo l'autan, eh. Io avrei una leggera voglia di sentirvi proprio che chiudete bottega e basta con questa radiola di merda, basta, forza, dai, su. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Ma cosa pensi? Io sono un uomo di mondo, io parlo 4-5 lingue, meno che l'italiano. Ma io non ho mai avuto a che fare con un trans, te lo dico da amico, non ho mai avuto a che fare. Ma mi faccia il piacere. Prima di affrontare, lo so, la questione Crocetta, la frase che sarebbe stata detta dal medico personale di Crocetta su Lucia Borsellino, che è un assessore già dimissionario della Regione Sicilia, insomma deve fare la fine del padre, cioè va fatta fuori, questo avrebbe detto a Crocetta silente il suo medico personale, quello dello sbiancamento, tanto per intenderci. Ecco, sì, perché sennò... No, quello dello sbiancamento anale. L'unico riferimento vero è quello lì. Esatto, no? Il signor Matteo Tutino. Signor Matteo, prima di occuparci di tutta questa cosa che Buriana, sì, dai, che interessa Buriana. Solamente gli addetti ai lavori della politica, diciamo la verità. I siciliani, alla gente normale, come sentiremo fra poco, a Treviso, per esempio. La gente normale delle vicende politiche di Crocetta non fotte nulla, zero. Niente, prima di affrontare questo tema, ti voglio far sentire due cose, sì. Perché io non sono andato dallo psicologo, non sono andato questo dall'analista, non sono andato dall'analista, male. E però ti faccio sentire Woody Allen sul tema delle prostitute, sì. Che tu consideri dei clienti delle prostitute, che tu consideri dei miserabili. Battute dei miserabili. Di Woody Allen, sono battute simpatiche. Allen. Ma sono battute di un grande comico. Ma Woody Allen. Non è cambiato niente, io sono passati gli anni e avevo un analista sia allora che adesso. E sono 6 analisti di distanza, ho 3 mogli al mio attivo e non riesco a mettere in ordine la mia vita amorosa. Io ancora mi piacciono le puttane, cioè ecco io... Per me l'ideale è che tu le paghi e loro ti vengono a casa e non ci devi discutere di Proust, di film o di... Non lo so che cosa mi succede, io non... Io direi poi di estrarre quella piccola parte, l'ideale, non ci devi discutere di Proust, eccetera, eccetera. Ma andiamo avanti. È una battuta. Mamma mia, lo so, che me lo devi dire a me. Che me lo devi dire a me che è una battuta, ma che vuol dire? Ma scusa, dai, non è poi prenderlo come paradigma di una teoria. Vede, ecco, è che non sono mai cresciuto, mi sento insano, non è che... Ecco, io vedo altri della mia età, io penso sempre a scopare ogni donna che incontro, ecco, dovunque, in banca, un'estranea, vedo una sull'autobus e penso, come sarà nuda? Chissà se me la posso fare. E, insomma, è una follia. Io vedo dei tizi che conosco che fanno gli avvocati, i medici, hanno famiglia, casa e non sono così. Ecco, il presidente degli Stati Uniti vuole forse scopare ogni donna che vede? Cioè, ho sbagliato esempio, d'accordo, ecco, ma io non lo so, ecco. Vabbè, andiamo a Crocetta, dai, forza. Non è che possiamo fare troppo gli originali, aprendo con Woody Allen e la voglia insopprimibile di scopare e le puttane che sono meglio delle donne normali, perché non ci devi parlare di Proust, il signor Woody Allen. Pensavo aprissi con una cosa che interessa il grande pubblico, che è la vicenda Fitto. No, senti Crocetta. Pensavo allora, Fitto. Dice che non ha mai sentito quella frase, perché poi la frase incriminata, che è quella... tremenda che avrebbe pronunciato questo medico al telefono con Crocetta, frase terrificante di Crocetta, lui dice che non l'ha proprio sentita, cioè che c'aveva aereo in galleria, il telefono non prendeva. L'ha sentita questa frase? Mai, mi autosospendo perché non riesco a gestire questa sofferenza e voglio riflettere, perché sono un essere umano, preferisco il mio leccarmi le mie ferite e il mio dolore. Tra l'altro l'autosospensione non si capisce bene che cosa vuol dire, perché non è prevista. Allora, se tu ti senti innocente, se tu pensi di non avere nulla da rimproverarti in questa vicenda, cioè che la frase non l'hai sentita, tra l'altro la procura dice che non c'è agli atti, l'Espresso che ha tirato fuori questa roba farebbe bene a darci certezze su questo, cioè questo è evidente, si sta, c'è un casino pazzesco per in ora Sicilia. Diciamo che stiamo discutendo su una cosa che non si sa se c'è, questo però è il fatto, cioè. Poi si mette a piangere, Crocetta. Io non sono cuffaro, che era legato alla condannato e stava lì a gestire la regione siciliana. Io ho scelto una missione, questa missione se è possibile portarla avanti, basta, se no, no, assolutamente. Lasciatemi nella mia sofferenza, nel mio dolore, cui mi sento. Mi lasci stare, per favore. Va bene. Ah, questa è una telefonata di Repubblica con Crocetta piangente. Allora, il procuratore di Palermo dice: non risulta l'intercettazione tra Crocetta e Tutino. Allora, ragazzi, o stiamo a dire tutte cazzate, o ragioniamo su cazzate pazzesche con gente indignata, la famiglia Borsellino, richieste di dimissioni che vengono da tutti gli esponenti del Partito Democratico, i quali in maniera ipocrita considerano le intercettazioni di Renzi una sorta di, com'è che ha detto ieri la Boschi, di un libro di fantasy, no? Sì. E però prendono sul serio quelle che nemmeno esistono, pare, cioè che la questo procura nega di Crocetta. Questo cioè, è siccome Crocetta è andato in disgrazia nel Partito Democratico, no, soprattutto è anche anti-renziano Crocetta, no, anzi non è né renziano né nulla, lascia perdere, sì, no, certo, il problema sì. È un altro. Crocetta è inviso ai vertici del Partito sì. Democratico in Sicilia, sì, quindi deve morire, basta, dunque deve essere affossato, bastone il can che affoga, come dicevamo. Allora, lì l'intercettazione che nessuno ha mai sentito, che non esiste nemmeno nei brogliacci secondo la procura, e che speriamo che esca fuori, perché noi crediamo agli amici dell'Espresso, va benissimo. Nel caso di Renzi invece è un film di fantasy, ma guarda che è incredibile. Allora, quelli che hanno criticato l'uscita delle intercettazioni sul fatto di Renzi si dovrebbero vergognare oggi a chiedere le dimissioni di Crocetta per questo. Se vogliono le dimissioni di Crocetta, se lo sfiduciano la Regione Sicilia, non rompano i coglioni. Treviso che succede? Succede. Su questo sono d'accordo con te. Allora, su a Treviso roba. Che succede? Che no, il caso Treviso, okay. Amico mio. Allora, in un paese che si chiama Quinto di Treviso. Sì, governato dalla Lega Nord. Vabbè, sì, Lega per Nord. Per l'immondizia della Padania. No, andrebbe. Dai, su, sì, Lega sì, Nord per l'immondizia della Padania. Va ribattezzato subito aspetta, così. Aspetta, allora. Ce l'ho qua da ieri questa. Lega Nord per l'immondizia allora, della Padania. Che succede? L'indipendenza non esiste più, esiste l'immondizia della Padania. Che succede a Treviso? Succede che in questo piccolo paese. Invasione! Di 100 profughi, invasione, invasione. Ma li hanno messi, stai zitto, invasione. Guarda che ti sei scaldato. Stai zitto, che mi hanno invaso. Mi stanno prendendo anche a me, mi stanno portando. Ma scusa, mi hanno invaso. Tu saresti contento? Fermo là. Ho capito. Mi stanno trascinando nella fossa, invasione. Ma scusa, fermo là con questa scenetta. Allora, scusa. Io dico una cosa, ma a te farebbe piacere se ti piazzassero nel tuo condominio benestante di Prati una famiglia di profughi o no? Lo accetteresti? Anche no, dimmi la verità. Lo accetteresti giorno, o no? Anche no, senza averti ma rispondi sentito a questa domanda. Giorno, lo accetteresti che avresti... a te? Lo accetteresti o no? Lo accetteresti o no? Lo accetteresti o no? Basta, mi prendo due minuti di pausa. Ma appunto, sentiamo le voci. Perché sentiamo troppo... le voci da Treviso intanto. Perché le voci da Treviso? Sì, degli abitanti lì che sono incazzati le neri. Le voci da Treviso di gente che incendia i mobili. Incendia i mobili delle case dove dovrebbe gente andare. Gente che incendia i mobili. Sentiamo. Adesso qua sarà piena di loro. Cioè, ma non che siano inferiori a noi, ma non... questo è un ambiente nostro. Cioè, noi paghiamo tanto qua. Noi non è che viviamo nel Bronx. Qua si pagano spese condominiali altissime. I miei figli devono crescere con questi valori e quando la incroceranno gli devono dire: signor sindaco, non voglio che prendano dei valori diversi da quelli in cui io ho cercato di radicarli. Ma a un certo punto che succede? Che ci sono personaggi di Forza Nuova, ecco, che impediscono la distribuzione dei del cibo. Hai a queste capito. Persone. Dalle mira per roba, l'acqua, gli italiani! Portate una mira, portate una mira! donne, le donne non le possono toccare. Vergogna! Vergognati veramente. Mi porti a lucrare sulla gente, basta! Fermi tutti, torniamo criminali tra un secondo. Di Forza Nuova. Torniamo tra criminali, un secondo con criminali. Il sindaco di Quinto di Treviso, molto arrabbiato per quello che è successo con tutti, prefetto, eccetera. Sindaco, buonasera, aspetti un attimo, fermo. Le strade in diretta saranno anche utili. C'è il traffico. Mamma mia, no, il traffico. No. Sono una boiata pazzesca. Traffico, no. Fate qualcosa, vi prego. La Zanzara. Allora, intanto l'Espresso dice che è negli atti secretati, eh? È negli atti secretati. Pare che non fosse nemmeno importante per l'indagine questa conversazione tra Tutino e Crocetta. Non dubitavo, non è che pubblicano cose inesistenti. Però pare non fosse una intercettazione fondamentale nell'inchiesta su Tutino. Però mentre il mondo della politica discute sulla sorte di Crocetta in Sicilia, la realtà è a Treviso. Allora, il sindaco di Quinto di Treviso, credo che sia della Lega Nord, Mauro D'Alzilio. Buonasera, Mauro. Buonasera a voi, ascoltatori. Ciao, voglio capire, Mauro D'Alzilio, se i cittadini fanno bene a ribellarsi oppure no? Dimmelo sinceramente. Fanno benissimo a ribellarsi, perché la questione è stata gestita in maniera scellerata. Cioè, non dovevano metterli in quelle case? Non dovevano metterli in quelle case? La questione, non stiamo parlando di accoglienza, sì, accoglienza. Vabbè, no, d'accordo. Stiamo parlando che... Scusi. Sì, no, stiamo parlando... Che è successo? Stiamo parlando del modo che è stata gestita la cosa. Non è stato avvisato nessuno. Io ho ricevuto una telefonata alle 9 del mattino che mi dicevano che a Quinto in qualche posto avrebbero portato queste persone, migranti che cercano una fortuna, va benissimo, e mi portano dopo 10 minuti su un posto che ho saputo grazie a una telefonata di un cittadino, 101 persone, persone, ripeto, di cui 5 donne, il resto tutti uomini, su una palazzina occupata da 15 famiglie, che ci sono esclusivamente 15 famiglie, con mutui ventennali, trentennali, che stanno cercando di creare il loro futuro per loro e i loro figli. Quando io mi sono trovato... Ma il fatto che siano tutti uomini, il fatto che siano tutti uomini, che c'entra? Perché è un pericolo questo? No, perché secondo me questa qua non è una fuga da una guerra, ma questa qua è una migrazione economica. Vabbè, questa è una valutazione sua. Questa è una valutazione mia, mi sembra. Va bene. Ma lei che cosa teme? Le malattie, gli stupri? Cosa teme? La diffusione delle malattie, per esempio? No, io temo la tranquillità e la sicurezza dei miei cittadini. No, appunto. Io cioè vedere che... i miei cittadini. Sì, vedere i miei cittadini. Che devo chiamare l'ambulanza perché ci sono svenimenti per la tragedia che stanno vivendo. Vedo mamme allattare i bambini in strada perché non c'è il marito, non si chiedono entrare in casa. Vedo le forze dell'ordine che chiedono i documenti ai miei cittadini per entrare in casa loro, non ci sto più. Ma perché le forze dell'ordine come si stanno comportando, bene o male? Diciamo che stanno facendo il loro lavoro. Io non ce l'ho con il poliziotto, perché sempre tanto di cappello chi fa questo mestiere, perché ci sta difendendo e stanno portando avanti degli ordini. Però gli ordini non sono precisi, perché non è possibile che un cittadino che abita in quel civico, per entrare in casa sua, debba tirare fuori un documento per fargli vedere che è casa sua. Questo è successo in questi giorni. Cioè stanno dalla parte delle forze dell'ordine, stanno dalla parte degli immigrati, dice lei, dei profughi? No, non le sto dicendo questo. Io sto dicendo che le forze dell'ordine eseguono degli ordini. Forse gli ordini sono sbagliati. Ma queste 100, scusi sindaco, però... Sì. Beh, andiamo sul pratico, no? Queste 100 persone, io li chiamo profughi, lei li chiami come le pare, persone, chiamiamole persone, che fine fanno adesso? Ci poniamo questo problema? Visto che ha ragione lei, è stato gestito male, la prefettura, hanno chiamato in ritardo, questo è tutto vero. Dopodiché, Forza Nuova che si mette di mezzo e fa casino, quelli che bruciano... Beh, mi allontano subito da Forza Nuova, per carità, che non facciamo impedimenti, perché le azioni che uno fa non le condivido assolutamente. Ma adesso queste 100 persone, che fine fanno? Queste 100 persone chiamiamole. Persone. Su questo siamo pienamente d'accordo. Ecco, che fine fanno, amico della Lega? Dovrebbero andare... Allora, lei le vuole cacciare da là o no? Che fine fanno oggi queste 100 persone? Questo voglio sapere. Queste 100 persone in questo momento sono all'interno degli immobili. Ma devono andare via da là o no? vi annuncio che io sto predisponendo, manca pochissimo, pochi minuti, sì? E manderò la posta certificata alla prefettura con l'ordinanza di sgombero del cioè le vuole sgomberare io l'immobile? E dove li mette queste persone? Io metto la sgombero dell'immobile, in quanto questa mattina, e ringrazio il governatore del Veneto, Luca Zaia, vabbè, d'accordo, che mi ha e mi ha assistito, siamo andati in sopralluogo con i tecnici dell'USL e hanno verificato una serie di mancanze. Queste mancanze... Ma queste, lei ha paura delle malattie, per esempio? Anche sì, perché io ho chiesto alla prefettura l'elenco, e penso che un sindaco debba avere l'elenco dei nominativi delle persone che sono all'interno di quell'immobile. Mi è stato risposto che a seguito della privacy non mi vengono date. Secondo voi io riesco a garantire la sicurezza dei miei cittadini non sapendo neanche chi ho? Cioè, ma i cittadini, per esempio, fanno bene a bruciare i mobili e degli appartamenti? No, fanno assolutamente male. Non è un modo intelligente questo di mostrare le proprie questioni. Quindi vanno difesi quegli immigrati? Questo. Vanno difesi gli immigrati da questa furia che si sta scatenando? Io non ce l'ho contro i migranti. No, ma lei, ho capito, attenzione, ma va difesa questi immigrati dalla furia che si è scatenata in queste ore? Ma sicuramente sì. Ossia, sono persone, vanno rispettate. A me lo dice, beh, certo. Sì, ho capito, ma lei dove... Lei li sgombera, però scusi, dice vanno protette, poi manda la forza pubblica per sgomberare devono gli immobili, e che fine fanno? Che devono trovare delle soluzioni. Ma lei anche le istituzioni, amico mio. Ma non ce li vuole là, non ce li vuole in quelle case. Ma amico mio, sei sbagliando, amico mio. Amico mio, sei sindaco, non sei bubù. E vabbè, allora sei bubù. Io sono sindaco e sono chiamato. Sei sindaco o bubù? Cioè, no, se, fammi capire, se sei sindaco oppure bubù, perché se certo. Sei bubù va bene, bubù, allora bubù Cruciani, bubù Parenzo, bubù Gigio, d'accordo, bene. Noi siamo bubù e non abbiamo grande potere, se non quello di parlare di queste cose, no? Lei però non è bubù, certo. Siamo d'accordo? E li vuole cacciare, sono infatti. Sono sindaco. Oh, li vuole cacciare da lì. Ma questo è bubù, non è sindaco, è una no, roba perché? Da bubù. Li vuole sgomberare, ma li vuole mandare via. E quindi no. Che fine fanno? Stanno no, in strada? Per cortesia al signore che è là a fianco, si calma un pochino e esprimo la mia opinione, se no il bubù se lo tiene lui. No, io mi... Ma oh, scusi, lei di che cosa ha paura? Delle che ne so, che gli uomini di notte stuprino le donne del suo paese? No, che cosa? Allora, no, ma ascoltatemi. Ho una palazzina con 15 famiglie e 100 migranti. Ieri sera non c'era una forza dell'ordine per controllarli prima sera. Dunque lei ha paura, ha paura per l'incolumità dei suoi cittadini? Mi dice, io sì sono sindaco e sono chiamato a far rispettare la normativa del mio paese. Vabbè. Io sono eletto. Lei, no, lei però deve dire chiaramente che lei no. Allora si vada a incatenare davanti alla prefettura? Io sono più importante del prefetto? Si potrebbe incatenare davanti alla prefettura. Cioè lei dice, io sono stato eletto e sono più importante di quello che decide il prefetto, giusto? La Madonna, non ho detto che. Lei ha detto, io sono stato eletto, lui no. Cioè, vada fino in fondo, no? Ha detto, io sono stato eletto e lui no. Lasciate, sì. Questo ha detto. Il prefetto non è stato eletto da nessuno e sta eseguendo degli ordini di un governo che io non riconosco. Non riconosce il governo lei? No, perché non è stato eletto da nessuno. Ah, non riconosce il governo. Vabbè, benissimo. Lei è il sindaco di Quinto di Treviso e dice non riconosce il governo. Va bene, grazie, arrivederci, okay, grazie. Arrivederci. Vorrei sentire Stefano da Mantova. Vai. Ciao ragazzi. Ciao, dimmi. Ciao. Il tema che volevo cogliere era quello di ieri, della prostituzione e dell'invettiva moralistica, sì, di Liguori. Io sono liberale e libertario, quindi vagamente ti somiglio, Giuseppe. Però, insomma, l'equiparazione delle escort, insomma, su una prostituzione, secondo me, è forzatissimo e fuorviante. Che cosa? Cioè, il paragone tra la prostituzione e sono quelle che volgarmente diciamo proie e le escort, comunque è molto forzato e ieri mi hai fatto sobbalzare. Ma non ho capito che cos'è forzato. Sì, perché tu avevi paragonato, avevi costretto tecnicamente, radiofonicamente Liguori a dire che Berlusconi quindi era un miserabile, no? Però l'atteggiamento di chi accoglie in casa propria e anche in un certo senso toglie e mette sotto tutela una donna libera, che lì in modo liberale entra. Oh, guarda, in una allora dimora, chi, lasciamo perdere il paragone con Berlusconi. Parenzo e Liguori sostengono che chi va a puttane è un miserabile ed è una cosa che solamente a sentirla mi fa venire i brividi. Mi fa venire i brividi. Cioè, perché è un insulto alla libertà. Un insulto alla libertà. Fermi tutti. Ormai è tutto. Tutto degradato ormai. Io vorrei un'Europa fondata sul lavoro. E tu come vorresti l'Europa? ogni giorno alle 14 alle 21.30 Europa 24 ti aiuta a costruirla, informandoti in tempo reale sulla situazione politica, economica e culturale dell'Unione Europea, per essere davvero cittadini d'Europa. In collaborazione con Euronet Plus. La Zanzara. L'ideale è che tu le paghi e loro ti vengono a casa e non ci devi discutere di Proust, di film o di... Amico mio, a Lido lo dico da amico, gatta ci cova lì. I cittadini bruciano i letti dei profughi. La rivolta dei residenti di Quinto di Treviso contro il prefetto che manda i profughi praticamente negli stessi stabili. Io la penso come Antonio Martino, Forza Italia, insomma una delle figure storiche di questo paese, si può dire, ex sì. ministro, eccetera, eccetera, che dice: una canna non la proibisco, ma io non la fumerò mai. Non solo non la fumerò mai, ma io dico anche non l'ho fumata. Tra l'altro Salvini, che si oppone alla legalizzazione delle droghe leggere, nel 1998 in un'intervista al Sole delle Alpi diceva queste parole, quando cosa, era scusa? Al un giornale che si chiama Il Sole delle Alpi. Esistevano anche già così. Ne sentiamo la mancanza. Allora, noi ci sentiamo già la mancanza da tempo. Noi ci rapportiamo alle tematiche classiche della sinistra, dalla forte presenza statale alla liberalizzazione delle droghe leggere, che poi è la legalizzazione. Questo era il compagno Salvini. Tra l'altro, in un'altra trasmissione a ottobre sulla 7 mi segnalano, disse: parliamone sulla legalizzazione. Oggi invece la cannabis fa male, il sesso no. Andiamo. Giovanni, provincia di Vicenza, buonasera. Sì, mi riferisco ai fatti di Quinto di Treviso. Sì, dimmi. Come la penso... Dai, dimmi. Niente, volevo dire, questa gente che arriva non è che ha le chiavi per entrare in questi appartamenti, cioè non sono degli abusivi, è gente che viene portata lì in accordo con evidentemente i proprietari. Sì, lei però sta parlando dal viva voce. No, sono senza niente. Vabbè, allora? No, nulla, voglio dire, qualcuno li porta, qualcuno viene pagato per dare questi appartamenti in uso a queste persone. Sì. Pertanto la gente di Quinto non si deve incazzare con gli immigrati, ma con i proprietari, eventualmente chi è in possesso di questi appartamenti e delle chiavi. E perché, scusi, questi proprietari che colpe hanno, secondo lei? No, per me nessuno, ma voglio dire, se la gente si lamenta... Cioè è inutile prendersela con i profughi. Ma infatti nessuno se la prende con i profughi, bruciano i mobili o bruciano tutto quello che c'è dentro le case per non farli entrare, questo pazzesco. È il punto. Pazzesco. Questo esatto, è il punto. Per me è da condannare prima di tutto per chi fa questi atti. E poi se la devono prendere con qualcuno, che se la prendono con i proprietari degli appartamenti che hanno dato, che danno. Ma magari sono d'accordo con molti ascoltatori che in questo momento sono collegati qui con la Zanzara, sono d'accordo con quelli che si oppongono in tutti i modi, anche bruciando i mobili, ai profughi che devono entrare. Ma la gente fa cose, ma Santi dalla provincia di Messina, vai. Ma Santi, sicuramente saranno d'accordo alcuni che chiamano. Vediamo. Non mi stupisce. Santi, pronto? Dimmi. Allora, ciao Beppe, ciao Parenzo. Niente, io chiamavo per esprimere, diciamo, solo schifo verso le parole di Crocetta, però questo mi sembra che sia abbastanza banale, no? Adesso sentivo appunto che sì, la devo prefettura... dirti una cosa, allora Crocetta, il problema fondamentale di Crocetta, che ha cambiato 37 assessori e pare abbia fatto poco per la Sicilia, questo non è un problema diverso. No, ho detto che siccome adesso la vogliono martirizzare per questa cosa, allora o c'è la prova evidente che questa telefonata, lui è stato zitto e non ha reagito alle telefonate di questo signore che dice una cosa terribile, Borsellino va fatta fuori come il padre. E allora è un discorso. Oppure, finché non abbiamo la prova, se la linea si è interrotta, se quella è caduta giù, se lui poi non ha parlato con Tutino, eccetera, eccetera. La zona, la zona d'ombra. Sì, d'accordo, però ragazzi, possiamo ironizzare quanto vogliamo su Crocetta e questa frase qua, però lui dice di non averla sentita nemmeno quella frase, tra l'altro. Cioè, però, perché l'autosospensione? Cioè, se lui non ha sentito la frase... Infatti, quello secondo me è un errore, ma il problema è che è talmente debole politicamente che basta questa cosa qui, ovviamente, lo affossa. Il problema è la sua debolezza politica, dopodiché questa frase, se lui è stato zitto, diciamo, di fronte a una frase del genere, chiaramente si commenta da solo, non c'è bisogno nemmeno di replicare. Lui nega tutto. Se fosse stata vera, però, sarebbe un'ulteriore sconfitta per tutta la Sicilia. Vabbè, cioè, noi sconfitta ragazzi per la Sicilia. Anni che andiamo sconfitta per la Sicilia, adesso non esageriamo. Che protestiamo, cioè che ci battiamo fondamentalmente sempre contro la mafia, contro questo genere di persone. Ma poi non ho capito, ma perché Crocetta parla al telefono col suo medico della Borsellino? Questo è il punto fondamentale. Beh, questo no, aspetta, facile da capire, però. Perché la Borsellino era l'assessore alla sanità e si opponeva ad alcune cose che voleva Tutino. Esatto. Allora andiamo a Torino, Graziano, vai. Ciao Giuseppe, buonasera. Dimmi. Guarda, io ascolto la vostra trasmissione ormai da 4-5 anni. Dimmi. E ogni tanto, quando sento Parenzo che fa certe affermazioni, mi viene la bava alla bocca. Anche a me quando ne sento altre. Capisco che è una persona di una certa cultura. Quali, per esempio? Tutto, c'entra niente quello. Ma ad esempio, io vorrei sapere cosa succede a un gruppo di profughi clandestini, chiamiamoli come vogliamo, quando entrano nel paese che, anche se Parenzo è italiano, è riferimento culturale, morale e quant'altro di Parenzo, cioè quando entrano in Israele. Io sono sicuro che se vanno in Israele e non ho i requisiti per poter stare in quel paese, ma dopo 5 minuti loro sanno vita, morte e miracolo di me. Vorrei sapere, visto che lui ha una ricetta, è un paese che è stato in grado sicura di accogliere chiunque, perché è un paese... Vabbè, adesso non c'è bisogno di fare... No, ma è stato in grado un paese che ha accolto un sacco di immigrazione, no. Quindi non c'entra. Vabbè, Graziano, al di là della questione, guardi, non c'entra niente. Guardi, lei Parenzo mi fa divertire quando ha questi duetti con Mago Telma e tutto quello che vuole, però io penso... Lasci stare Otelma, nel merito, no, ci sono 100 voglio dire profughi, che lei è anche una d'accordo figura divertente e per me è una piacere persona che fa ridere. È meglio ridere che una cosa positiva, però a io penso che se lei piangere fosse vissuto all'epoca di Gesù in Israele, lei sarebbe stato o Caifa o uno dei suoi attendenti, perché 19-25. Ha proprio quella mentalità per cui ha sempre ragione. Esprimo la verità. Esprimo un punto di vista. Non di c'è nessuna verità, caro Ponzio Pilato. Io in fabbrica ci ho lavorato 12 anni, amico mio, e tu non sai cosa vuol dire, perché non hai mai fatto adesso un cazzo. Lei è passato vita, prendere nozioni. Ma lo lasci parlare un attimo, se no non si capisce. Sei vuoto. Tu a me mi puoi solo baciare le chiappe, hai capito? Vabbè, adesso che c'entra le chiappe? Scusi, professore, lei è partito, io lo lascio parlare tranquillamente, lei è partito da Caifa ed è arrivato alle sue chiappe. Ora, il legame è difficile da individuare, questo sì, film. Sì, sei bravo. Qual è l'accusa? Qual è l'accusa che lei mi fa? Quando andavo lì, ma sai quanti ne ho trovati? Cioè, non mi puoi forzare con le tue... sei molto abile con le parole. No, ma io qual è l'accusa? Parli... Qual è la critica? Questo io ancora non ho capito, caro Graziano. Critica, grazie Graziano. Caro Parenzo, poi grazie, possiamo Graziella anche avere una discussione civile al di là. Cioè, non ho capito, Graziano, tu sostieni. Aspetta un attimo, non ho capito cosa sostiene. Graziano, tu sostieni che cosa? Tu sostieni che questi abitanti di Treviso fanno bene a bruciare i mobili? Andiamo al concreto. Ecco. Andiamo al concreto. Io per andare al concreto direi che fosse una persona che ha un incarico di responsabilità nella provincia di Treviso, prima di mandare 100 persone che siano proprio i clandestini, sono esseri umani, possiamo parlarne fino a domani. Prima di mandare a contatto con un condominio di altre persone? Preparerei un attimino la popolazione e infatti, di questa cosa. E infatti il prefetto ha fatto una stronzata. Andiamo a Milano, Lorenzo, questo lo dico io. Il prefetto ha fatto una minchiata perché non si possono mandare 100 prefetto persone. Prefetto e ministro degli interni, ma questo l'ho detto Lorenzo anch'io, da Milano, ma vai, Lorenzo da Milano. Giustifica gli immobili incendiati, gli indegni criminali di Forza Nuova che fanno organizzano con Lorenzo, la gazzarra. Folklore, quella gazzarra che hai fatto sentire. Lorenzo da Milano, dai. Pronto? Vai, dimmi Lorenzo. Eccomi qua. Ragazzi, siamo alla follia pura. Beh, io abito in una palazzina, mi sono fatto 30 anni di mutuo e mi fanno entrare in casa tutta questa gente che arriva da altri mondi, disperati, e siamo disperati anche noi, abbiamo 30 anni di mutuo anche noi. Ma sei uno, uno di quelle palazzine? No, io ho un'amica che lavora in quella palazzina che non vuole assolutamente che sia fatto il suo nome. Lei sta allattando suo figlio fuori di casa, ha paura a entrare, finché non arriva il marito da lavoro. Follia pura. Cioè, Parenzo, tu dovessi scegliere, devi comprare un appartamento, puoi scegliere o in quella palazzina o in un'altra. Ma forse libera. Non ci siamo capiti. No, forse però tu all'inizio. No, no, scusatevi però, perché forse non ci siamo veramente capiti. All'inizio, Parenzo, tu hai detto c'è l'invasione, hai ironizzato sull'invasione. Distinguiamo tra le due cose. Primo, la cosiddetta invasione dei 100, io su questo ho ironizzato, sull'incapacità del ministro degli interni e del prefetto, e anche del BUBU, e anche del sindaco Bubù, che abbiamo sentito prima, l'incapacità di gestire 100 persone. Quello l'ha subita, non sapeva niente. Infatti, poverino, lui forse un po' di... Bubù che impari a fare il sindaco e faccia seguire. Allora lui giustamente si è trovato sta roba da dover gestire, e adesso l'unica soluzione che ha trovato è quella di fare un decreto di espulsione e di liberare quelle case. Benissimo. Facile, così facile. Dopodiché cosa faranno quelle 100 persone? Quelle 100 persone, una volta che saranno state sgomberate dal bubù, vabbè, quello chi se ne frega, quello che fanno, chi se dai, ne frega, su. Certo, fermi 100 tutti. Persone, non me ne fotte frega. Nulla, risolvono i problemi, li mettono dentro le tende, dentro le cose, certo non a contatto con altre persone nello stesso condominio, li mettono dove vogliono, dentro le caserme, eccetera, mica li devono buttare a mare, li mettono dentro le caserme, non li mettono a contatto con le persone che vogliono vivere tranquillamente, che naturalmente sbagliano se bruciano i mobili, però sono incazzati e fanno bene ad essere incazzati. Sono incazzati e sobillati dalle destre. Ma lascia perdere le destre, che c'è. Tra quelli se ne fottono di quelli che arrivano là delle destre, dai, che gliene frega. Quando mai Parenzo non dice stupidaggine? State ascoltando un programma offerto da Stazioni di Servizio Costantin. Se ti fermi, ti conviene. La Zanzara. Amico mio, ma sei vuoto! Sei vuoto! Tu a me mi puoi solo baciare le chiappe, hai capito? Io vorrei capire se qualcuno della famiglia Borsellino, come immagino, è incazzato per quello che è successo intorno a Crocetta, no? Che dici tu, Parenzo? Saranno incazzati, sì? Beh, credo proprio di sì. Salvatore Borsellino, che dici? Incazzato? Beh, Salvatore sta preparandosi per la manifestazione. Sì, l'anniversario dell'anniversario della strage di Via D'Amelio. La strage di Via D'Amelio. Quindi sarà carichissimo. Proviamo a fargli una telefonatina, va. Telefonatina a Salvatore Borsellino. Scusate se vi angosciamo. Fratello di Paolo. Sì, fratello di Paolo Borsellino. E quindi lo zio di dell'ex assessore. Esatto. No, giusto per capire, diciamo. Sì, sì. La parentela, no? La parentela. La parentela. Salvatore Borsellino, proviamo un po'. Pronto? Sono David Parenzo, Salvatore, ciao. Ah, ciao, dimmi. Dalla vicenda Crocetta volevo chiederti una cosa su questo. Hai visto, no? Cosa gli viene attribuito in questo? La vicenda Crocetta è abbastanza sconvolgente. Se come sembra, diciamo, sono state dette quelle parole, lui le ha ascoltate e non ha ritenuto di dover fare nulla, e allora veramente è una cosa molto molto grave. Ma lui non l'avrebbe neanche sentite, dice, no, quelle parole. Ma a me mi sembra una giustificazione molto puerile. Comunque io ritengo che se diciamo gli sono state dette quelle cose, chi gli ha detto quelle cose doveva supporre che la reazione di Crocetta non potesse essere quella che avrebbe dovuto essere, cioè di rivolgersi immediatamente alla magistratura. Quindi se Tutino gli ha detto quelle cose, sapeva di potergliele dire, a mio avviso, o sbaglio? Scusami Salvatore, ma voglio capire una cosa, sono Cruciani. La frase esatta è agghiacciante, io te la ripeto, va fermata, fatta fuori, come suo padre. Guarda, è una frase veramente agghiacciante, perché fatta fuori il suo padre non significa gli deve essere fatto tolto l'assessorato. Suo padre è stato fatto a pezzi da un'autobomba, e quindi deve essere fatta fuori come suo padre significa per me una cosa soltanto. E se Crocetta ha ascoltato queste cose senza reagire inorridito, io ne trago le conseguenze. Ma lui se ne deve andare, lui, secondo te? Ritengo che, a fronte di quello che anche di un sospetto che ci possa essere, quello che c'è stato, ritengo che sia dovere fare non uno ma 10 passi indietro. Senti una cosa, ma fra poco c'è l'anniversario della morte di Paolo, ma lui è persona gradita al governatore Crocetta, alla manifestazione? Guarda, mia sorella e io avrei fatto lo stesso, gli ha mandato un messaggio dicendo: ovviamente non sei persona gradita in via D'Amelio. Cioè, per la famiglia Borsellino lui non è persona gradita? Per mia sorella e per me no. Ma tu, solo per l'amicizia con Tutino o per le supposte parole che avrebbe... No, l'amicizia con Tutino già era sicuramente non era una cosa positiva, ma dopo queste intercettazioni il grado di gravità, diciamo, si incrementa di gran lunga. Salvatore, scusami, ti voglio chiedere un'ultima cosa, ma Crocetta era considerato e si considera tuttora un'icona antimafia? È tutta una buffonata, allora? Guarda, le icone antimafia per me non esistono, sinceramente. Dunque Crocetta si autonomina? Ma per me, guarda, tutti i personaggi della politica, prima di parlare di antimafia, sarebbero meglio ad agire più che a parlare. Quindi, beh, lui è stato minacciato, diciamo, eccetera eccetera. Sì, ma no, non basta essere minacciato per essere un'icona antimafia. Le icone antimafia sono qualcosa che io non considero, e che è meglio, insomma, non le icone sono sempre da evitare. Ciao, grazie. Ciao. Grazie a te, ciao. Addirittura non può andare, secondo la famiglia Borsellino, alle manifestazioni per il 19 luglio, lì poi chi se ne frega, però comunque, cioè, lo considerano per una frase che c'è evidentemente, perché l'Espresso conferma. Lui dice però di non averla sentita, quella frase lì, di non averla nemmeno sentita. Vabbè, ognuno la pensa come vuole, eh. Andrea da Cremona, vai. Sì, ciao Crucioni, ciao Parenzo. Dimmi. Ascolta, no, prima di tutto toglimi una curiosità, ma tu fumi il sigaro, Crucioni? Sì, fumo il sigaro. Grande, certo. No, anch'io, toscani o cubani? Toscani, ma rigorosamente, che cubani, che sei matto? Ah, ok, grandissimo, a posto. No, ma non è mica un delitto fumare i cubani, il problema è che il toscano ha questo odore aspro, acre. Dipende, ci sono gusti cubano diversi. È un po' più dolce, eccetera. Poi il toscano lo puoi tenere in mano sempre, il cubano è un po' più impegnativo. Ma comunque poi va bene anche il cubano, ogni tanto li fumo. Ma no, era una curiosità mia, perché da poco sto pensando che io fumavo. Vabbè, a posto, chiuso. No, volevo dirti, purtroppo siamo destinati a essere sottomessi dai musulmani, cambio completamente il discorso. Sì, ma non è che i profughi che sono arrivati a Treviso, no, con tutto il casino, sono musulmani, non è detto, magari sono cristiani, magari se ne fottono. No, ma sai perché uso sottomessi? Cioè, siamo destinati a soccombere, tu dici? Sì, perché mi collego al libro di Houellebecq. Vabbè, allora? Penso che l'avete letto. Questi qua fanno figli, noi ormai passiamo le giornate occidentali, dico, facciamo le giornate a farci le seghe su YouPorn, i figli non li facciamo più. Questi qui a lungo andare, fra 30, 40, 50 ci fanno anni, mazzo così, dici? Bravo. E poi c'hanno comunque l'Arabia Saudita, il petrolio, hanno i soldi, credono in qualcosa, ormai noi non crediamo più neanche in niente. Cioè siamo destinati a scomparire, dici? No, scomparire no, però essere una succursale. Vedo un po' l'Europa come una succursale degli Emirati Arabi e tutto qua. Però non ISIS, mi raccomando. Vabbè. Ciao Andrea, Rinaldo Chieti, vai. Rinaldo. Ciao Crucia, buonasera. Dimmi. Io mi riferivo solo al sindaco di Treviso. Io penso che lui, anche come piano neve abbia un elenco di interventi da fare sul territorio, giusto? Allora? Ma la stessa cosa dovrebbe farlo con questa grande... No, questo signore qui si è visto arrivare, adesso può anche sì, essere, no, può aver sbagliato qualche parola prima nell'intervento sì, con noi, no, no, no, si è visto arrivare dal, per ordine del prefetto 100 sì, persone dentro un condominio, dentro sì, accanto ad un palazzo abitato da famiglie. Questo è assurdo. Questo è il punto fondamentale. No, poi c'è il proseguo della storia. Vabbè, dopo questi qua hanno reagito, no, alcuni hanno reagito bene, altri hanno reagito male, hanno paura, io non so se sono fondate queste paure, ma non si piazzano 100 immigrati a contatto con altre persone. Siamo d'accordo, il sindaco... Io non sto giudicando quello che fa la gente, la reazione eccetera eccetera, perché è come la palla, ce la dobbiamo giocare comunque noi, i condomini, i cittadini eccetera eccetera. Il sindaco è da 2-3 anni che sa che c'è questa... Ma da 2-3 anni che? Ma non è vero, ma non è vero, non è così, ma è arrivato adesso, sono arrivate adesso quelle persone, dai su, Vincenzo sì, da Roma, ho dai, capito, dai ho su, capito, Rinaldo, Vincenzo da Roma, dai, Vincenzo dimmi. Pronto? Ciao, senti, volevo buttare lì una domanda a tutti quanti. Sì. Come mai tutti gli ebrei italiani sono d'accordo con Lecchino, con l'inutile idiota che hai al fianco? In che senso tutti gli ebrei italiani? Hai fatto un sondaggio? Chi è questo imbecille? Hai fatto un sondaggio? Non ho capito. Chiedo scusa che non sapevo usare altre parole. Chi è questo imbecille? Vabbè, aspetta, lascialo parlare. Lasciamo parlare. Lecchino, questo ormai l'hanno capito tutti. Lecchino di chi, povero idiota? Sentiamo, di chi? Di quali compari, idiota? Di tutti i grandi, l'alta finanza, l'alta finanza. Quando mai ho parlato? Lei è un po'. Quando ho parlato di Trilateral, sì, Bilderberg, sì, sì, quando ho parlato di questo, idiota, perché solo un idiota può dire una cosa così. Ma, cioè, io perché, stimo, ma la sua chiamata ha un. Per scusa, altri cavoli. Benissimo. Tu stai, ma la sua chiamata ha un. Però lascialo parlare un attimo. Ma lascialo parlare su che cosa? Ma anche per contestarlo, lascialo parlare, poi lo contesti. Tu hai capito cosa vuole dire, però no, dice che sei amico dell'alta finanza, però fallo proseguire un attimo, Vincenzo, prima di attaccarlo, di fargli un mazzo così, lascialo un attimo. No, per carità, idiota, dai, parla. Senti, non è possibile che una persona intelligente come te, come Mieli, come tanti altri ebrei in gambissima sotto tanti altri aspetti, siano così cretini da essere il 2% degli italiani che vogliono che siamo invasi da questa gente. Un motivo c'è, ma ce lo fate capire? Io un po' l'ho capito, però non, cioè, non ho capito. Secondo te Parenzo è a favore dell'invasione? Ma certamente. Perché è a favore dell'invasione? Ha mai detto di essere a favore dell'invasione? Ma come no? Ma che siamo scherzando? No, è a favore, diciamo, del che ci sia una immigrazione. Un'accoglienza, ma questa non è immigrazione, intanto, è un'invasione, su, cioè, ci sono dei disegni internazionali ben chiari dietro tutto questo. Quali disegni? Quali disegni? No. Comunque i disegni avanti, di rovinare, vediamo, l'Italia, il Sud Europa e chi ha questo, cantando, sì, perché l'Europa c'è un troppo disegno forte dà fastidio all'America, che è comandata dagli ebrei, dagli, lo sappiamo, certo, no? Cioè, allora, Obama, aspetta. No, ma il complotto sarebbe ebrei americani che guidano gli Stati Uniti, che vogliono l'Europa sottomessa a chi? Agli islamici? No, a chi? Un'Europa non forte. Non forte, qui. Dunque favoriscono l'immigrazione. L'immigrazione, certo, il paese di merda che è il nostro, subito allarga le chiappe e arrivano tutti. Ma è il ruolo degli ebrei che non capisco, perché anche loro sono italiani. Dove ci porterà tutto questo? Dove ci porterà? Dove ci porterà? Tutta questa, la domanda è dove ci porterà tutta questa quantità di idioti? Sì, però vedi che devi lasciare parlare, porterà? Perché se lasci parlare si dipana il ragionamento. E che cosa hai si capito? Allarga, no! Perché tu sei d'accordo con questo ragionamento? Io non sono d'accordo, ma lasciamo allora parlare. Tu, lasciamo... Visto che tu non sei ebreo e non fai parte del grande complotto, Gruciani, giusto? Perché non sei mi ebreo, pare una bene? Cazzata quello che no, ha detto Vincenzo. Magari chiamerà qualcuno che dirà che sei ebreo. Può essere, no? No? Gruciani, due punti, è ebreo. Allora, Gruciani non è ebreo. Vabbè. Cruciari, cosa pensa di questo idiota? Che sia una stronzata. Ciao. Oh. I know you've been out running. When you stand all you're running, run to me. Il pianto di Crocetta. I know you love your loving. And when you're done with all your loving, come to me. Io non sono Cuffaro, che era legato alla condannato e stava lì a gestire la regione siciliana. Io ho scelto una missione, questa missione, se è possibile portarla avanti, basta, se no, no, assolutamente. lasciatemi nella mia sofferenza e nel mio dolore, qui mi sento mi lasci stare per favore. Va bene. Allora, dal pianto di Crocetta, io non ho capito bene che c'entra il povero Cuffaro che viene che c'entra Cuffaro che viene tirato in ballo da Crocetta sempre. Cioè, Cuffaro è in galera, lasciatelo perdere, cioè, sta scontando la sua pena in galera. La seconda cosa, Crocetta, se si sente innocente, se non ha mai sentito quella frase, se non ha mai risposto al suo medico, il famoso tizio dello sbiancamento, Tutino, non si deve dimettere. È inutile che si autosospende. L'autosospensione non esiste come sistema. Non esiste come. Beh, magari, no, certo, emotivamente si è fatto travolgere. Ma d'accordo, ma questa non, roba, ho capito, ma se cioè, che sei? A non me c'hai anche il pianto. Non hai le palle, sono... però. Non hai le palle, amico mio. Se non hai fatto nulla e hai le palle, reagisci in un altro modo. Su, dai, non so, è che. Però, sai, ho capito, a risentire il pianto, francamente. L'autosospensione è un istituto che non esiste. Non esiste. D'accordo, certo, o ti dimetti, certo. Oppure è un modo dici, per prendere io tempo, dai. Non ho fatto nulla, quella frase non l'ho sentita. Se l'avessi sentita avrei reagito. Non mi rompete i coglioni. Sono il presidente, se non mi volete più mi dovete sfiduciare. Punto e basta, così si deve rispondere. No, i pianti, le cose, ma di chi stiamo parlando, dai. Però ragazzi, basta Crocetta. Andiamo. Qui la cosa è seria, Parenzo, perché oggi Del Debbio, Paolo Del Debbio, conduttore sì. televisivo, ha detto che non farà il sindaco di Milano, non si candiderà al sindaco di Milano, non è il mio mestiere, eccetera, eccetera. Dunque, in pochi giorni. Anche se ha già fatto l'assessore in passato. Di Albertini, certo, sì, tanti anni fa, tanti anni capacità fa. Ce l'ha. Quasi 20 anni fa. Allora, qui resta in piedi per il momento una sola candidatura in questi giorni, perché sì. Pisapia non farà più il sindaco di Milano. Il centrosinistra farà le primarie, il centrodestra ha visto cadere Del Debbio, Feltri non si vogliono candidare, la famosa società civile. Salvini non si vuole più candidare. L'unico candidato che dice io voglio fare il sindaco è un mio amico, si chiama Massimo Boldi. Ciao Massimo! Ciao, come state ragazzi? È rimasto lui e Sgarbi. Sgarbi, sì, no, scusate. Sgarbi. Si mettessero insieme. Ma mettetevi insieme, Massimo. Sindaco e vice sindaco, meraviglioso. Vabbè, sarebbe mica male, siamo due pazzi. Ma chi fa il sindaco però? Chi fa il sindaco? Facciamo bim bum bam. Fate così, fate bim bum bam, fatela. Prendete anche Bonolis poi a quel punto, no? No, però a parte gli scherzi, Massimo, ma tu l'hai detto sul serio oppure scherzavi? Io ho fatto una buttata, chiaramente. Ma poi ho visto che ha preso molto questa mia esternazione, così. Cioè tu all'inizio scherzavi, anche se hai detto a parole. Io ho detto che l'unica cosa che mi manca ancora sarebbe quella di fare il sindaco, farei fare il sindaco a Milano. Sì. Da lì è partita questa informazione così eclatante. T'hanno tempestato di telefonate? No, solamente telefonate, ma ho visto l'eco che c'è stata tra internet e i telegiornali e insomma... in generale, e di conseguenza adesso ci sto quasi pensando che potrebbe anche essere veramente una cosa, anche perché non è il mio mestiere, nemmeno per me non è il mio mestiere, io faccio un altro lavoro. E perché ti sei ingrifato con questa storia? Perché potresti, diciamo la verità, se Crocetta ha fatto il presidente della Sicilia, diciamola tutta. Sì, questo diciamola lo dico. Se Crocetta ha fatto il presidente della Sicilia, amici miei, non vedo perché Massimo Boldi non può fare il sindaco di Milano. Scusa. No, poi oltretutto io penso che al giorno d'oggi la gente vota la persona, ma non vota uno schieramento politico. Dunque tu io sei... credo... tu adesso, non lo so, io credo che bisogna vivere un po' di simpatia, di serenità. E poi Milano veramente ha bisogno di un comico. Forse ha bisogno di un comico. Beh, un comico, che cosa vuol dire un comico? No, ha bisogno di un attore, di uno di ha bisogno... è una persona che ha fatto il comico e che probabilmente magari potrebbe anche entrare in una situazione molto difficile, molto complicata. Però soprattutto, ma che faresti una cosa? Dimmi la mia città, amo e voglio bene alla mia città. Allora Massimo, dimmi una cosa, facciamo finta che succeda una cosa incredibile, no? Tutti i candidi, magari qualcuno ti appoggia eccetera, diventi sindaco Massimo Boldi, primo atto, con la fascia tricolore sindaco, primo cittadino. Cosa faresti, la prima cosa che faresti? Dimmi una cosa bella che ti è venuta in mente. Ma una cosa bella l'ho detta anche su Panorama, affiancherei alla Madonnina un santo, perché la Madonnina è sola e non può rimanere sola. Oggi sono bisogna essere accompagnati, perché sennò si fare accoppiare la Madonnina, scusa. Allora metterei o Sant'Ambrose o metterei. Ma non si può fare accoppiare la Madonnina, Massimo, ma che fai? Ma che dici? Accanto alla Madonnina in alto metteresti un'altra cosa, un altro signore. Sì, metterei San Francesco, non lo so. Ma come si fa a mettere? Ma cosa incredibile? Però, perché domina sulla città e porta bene, porta. E ma poi quella è la Madonnina, ma. E poi bisogna cambiare la canzone, ovviamente la Madonnina non esisterà più. Oh mia bella, la sai la canzone simbolo di Milano? E come no? Come fa? Mia bella Madonnina che te brille di lontan, ti te dore piccinina, ti te domine e tuila, ma che chi anche a San Francesco, che le chi cui mani in mano, ti senti lontan di Napoli, se me ora metto vengi chi a Milano, te rom. Non fa esattamente così, no, questa è la rielaborazione di Boldi, del sindaco Boldi sì. In cui accanto alla Madonnina c'è anche San Francesco. Vabbè, io penso che tu hai preso questa cosa molto molto seriamente, ma a parte un personaggio da mettere accanto alla Madonnina, caro Massimo, la prima cosa che faresti per la città qual è? Che ne so, inventati una cosa. Allora, la prima cosa che io farei per la città è il traffico, cercare di regolare il traffico, sicuramente meglio di come adesso, la viabilità soprattutto, i mezzi pubblici, la metropolitana, e poi questa zona. Chi faresti assessore? Scegliamo gli assessori. Chi faresti assessore? Vabbè, assessore adesso è difficile dire. Beh, dimmi una persona, un personaggio che ti piacerebbe, dai. Cruciani potrebbe essere assessore alla cultura. No, per carità, assessore io. Tutto finito lì. Assessore alla cultura. Io posso essere assessore sul porno a Gogoli. Assessore ai piaceri pubblici, ai piaceri. Assessore al divertimento. Piaceri, a che piaceri? Piaceri di mangiare. No. Senti, tu devi sapere, Parenzo, che Massimo Boldi, al di là di questa cosa su Milano, che lui dice essere serio, ma non è che ti ha chiamato Berlusconi, no? No, per l'amore. No, non lo sento da una vita. Ma come mai? Da un anno. Come mai? Non lo so, si vede che. Non vi filate più? Non ci pensa più, avrà altri problemi. Non ci pensa più. Non ci sentiamo più. No. Ma la cosa un po' ti rammarica, diciamo la verità, un po' ti scoccia. Beh, un pochino, sai, è come mio papà. Un po' ti scoccia, ma lo capisco. È come papà. Ma secondo te perché si è dimenticato di te? No, non è che si è dimenticato, ha troppe cose da fare, secondo me. Però so che c'è un po' di amarezza in questa cosa, Massimo, c'è un po' di amarezza. Beh, un pochino sì, un pochino c'è. Cioè anche Mediaset che non ti fa più lavorare, un po' di amarezza c'è, dai. Un po' di amarezza c'è, sì. Però Medusa mi fa lavorare, però. Vabbè, almeno quello. Almeno adesso usciamo con questo film. A novembre, sì. Matrimonio al sud, vedi che mi sposto in giugno. Ma tu ancora lavori a 70 anni, ti rendi conto? Perché lui il 23 luglio? Il 23 luglio. Fa 70 anni. Parleremo fra pochissimo dei 70 anni di Boldi dopo la pubblicità, ragazzi. Pubblicità dopo i 70 anni di Massimo Boldi. Questa è, come vi ho già detto in una precedente trasmissione, una informazione da O'Clock. La Zanzara. Non so chi lo fa fare al Cipollino, il mitico Massimo Boldi, di immaginare. Allora, stavamo parlando dei 70 anni. Sì, ma solo di immaginare Massimo di entrare in politica dopo tutto lo schifo che vediamo ogni giorno, tutto il casino pazzesco, i sindaci che rischiano la galera, gente che no, travolta da inchieste, eccetera, eccetera. Però, che ti devo dire? Questo è per dissuadermi. Un po' sì. Ma senti, ma sì, Salvini sì. Ti piace? Salvini, mi è simpatico, perché no, certo, sì. Simpatico per fare un film, probabilmente. No, anche perché è uno che, insomma, che parla molto chiaro, ecco. È molto diretto. Però tutti i candidati. Non sembra neanche un politico, non sembra. E Renzi, più cabarettista o più politico? È più cabarettista. È più un cabarettista che politico. Cioè, però ma... è simpatico. Tutti simpatici. Ma se oggi quando dovessi... ho fatto l'intervista da Bruno Vespa, sì. Porta a porta, prima c'era lui, dopo ci sono stato io. E lui ha detto che i cinepanettoni sì. non le piacciono, però Boldi le piace. Perciò non vedi, è una cosa ambigua e strana, perché Boldi fa i cinepanettoni. E infatti, appunto, l'ha detto così, senza non sapeva quello che diceva, secondo me. No, secondo me, è contraddetto da solo. Ma oggi chi voterebbe Cipollino oggi alla soglia dei 70 guarda. anni? C'è qualcuno che voteresti? Berlusconi non lo voti più? No perché tu lo voti? No, sì. Io no, non l'ho votato, ma l'ho votato, ma oggi non lo voterei. No, l'ho votato, appunto, oggi, l'ho votato, ma oggi non lo voterei più. Chi voteresti oggi? Renzi? Oggi sarebbe difficile, sai. Bisognerebbe. Che ne so, Salvini. Salvini. Salvini lo voteresti? No. Come faccio, Salvini? Salvini non posso votarlo, dai. È un moderato di centrodestra, Boldi. No, è un moderato di centrodestra. No, Boldi. Sì, però... Boldi. Ah, Boldi, moderato di centrodestra. Sì, un moderato di centrodestra, un classico moderato di centrodestra. Non può votare la Ruspa, dai. Voteresti per? Teo Teocoli che mi sa che è accanto a te, per questo lo stai dicendo. passacelo un attimo. Passaci il Teone. No, ma scusa. Passaci Teocoli un attimo, il vice sindaco. Potrebbe fare il tuo vice sindaco, scusa. Vice sindaco, esattamente. Passaci il vice sindaco un secondo. Vice sindaco Teocoli. Passaci il vice sindaco. Vice sindaco Teocoli? Dove sta vice sindaco? Dove sei? Vice sindaco? Bisogna chiamarlo. Vice sindaco? Non rispondo. Così. Vice sindaco? Senti, chiamalo. Ma in 70 anni di vita di che cosa ti sei pentito di più? Guarda, mi sono pentito di tutto e di niente. Ma dimmi una cosa, una cosa che ti sei pentito di più. Pronto? Stai pensando? Oh, Teo, sì. Massimo. Massimo, tutto finito, la linea è finita. Franco D'Ancona, intanto, vai Franco, adesso recuperiamo la linea, vai Franco. Pronto? Dimmi Franco. Ciao, sto straincazzato, adesso senti Boldi, mi ha tirato un po' su. Aspetta un attimo che è ritornato Boldi, senti ancora per un po' Massimo. Massimo, mi è venuta in mente una cosa, ma tu con la fascia tricolore la sposeresti una coppia gay? Sì, perché no? Finalmente. Cioè, daresti la tua benedizione come sindaco di una coppia omosessuale? Cioè, sei a favore dei matrimoni gay alla fine, no? Ma sicuramente sì. Vabbè, stiamo dicendo una cosa di cui ti sei pentito in 70 anni. Qual è? Una cosa? La cosa di cui ti sei pentito di più in assoluto? Una cosa che mi sono pentito. Non ti viene in mente? È difficile, ma no, perché la mia vita è stata tutto un happening fino adesso. E l'errore più grande? L'errore più grande che hai fatto? L'errore grosso. Ma sai, sono cose talmente difficili da poter rispondere e dovrei dire un'altra battuta che poi è una cazzata. No? Dimmela, ormai se ti viene così, se me l'hai accennata, dimmi. Ma non mi viene, dovrei dire una cosa che non è carina. Ma con chi dici? Ma un po' con tutti. Guarda, la cosa che mi spiace veramente sì. è che nel mio lavoro esistono delle lobby. Sì. Delle lobby vere sì. che ti ostacolano, ti mettono i bastoni fra le ruote e questo non è giusto e non è bello questo. Quali sarebbero le lobby? Fammi un esempio, perché se no la gente non capisce. Se ti faccio i nomi diventa un argomento molto importante. Ci sono gruppi che si difendono fra loro e che combattono gli altri. Ma a livello di che? Di produzioni? Di che cosa? No, a livello di immagine, di lavoro, di denaro, di soldi, eccetera, di produzione, tutto, di tutto l'insieme. Lo star system sì. è un po' cambiato con le nuove generazioni, sono veramente cambiati, sono cambiati i tempi. Allora una volta ma ancora oggi, comunque chi ha veramente talento aveva modo di dimostrarlo. Invece adesso? E aveva fortuna. Oggi è tutto molto più facile, è vero che magari duri anche meno, magari fai un botto, duri un anno, due, tre, quattro, poi dopo piano piano scendi. Un insomma, una volta c'era una palestra dove adesso le lobby decidono tutto. Decidono quasi tutto, è come nella finanza, è come nella politica, è come ormai il mondo è cambiato, dai, bisogna rendersi conto. Senti Massimo, ma perché non hai più fatto pace con Christian De Sica? Ma io sono felice di non aver fatto, ma io a parte che non ho mai litigato. Sì, però sei felice. Non te ne sono stato io che mi sono staccato perché volevo capire chi ero, volevo riuscire a capire se ero ancora capace di fargli della gente solo. Ed è stato preso come un litigio, invece non è un litigio, è una crescita che io ho fatto e che sono felice di averla fatta. Di conseguenza. Beh, ma lui perché ce l'ha con te? Perché ce l'ha con te? No, ma lui non ce l'ha con me. Non ce l'ha mai avuto. Sono stati i primi momenti, i giornali, la stampa che hanno. Senti, ma è vero che hai guadagnato 1.000 miliardi di lire in 20 anni? Così no, leggo. Non io, De Laurentiis, il produttore. Ah, il produttore. 1.000 miliardi. Sì, ma 1.000 miliardi di lire. No, vedo qua, il campione di incassi. No, campione di incassi. Campione di incassi. No. Di lire, più fenomenale della storia del box office, oltre 1.000 miliardi di lire in 20 anni. Ma magari, no, la produzione. Quanto ti è rimasto dei soldi che hai guadagnato? Niente. Come niente? Ma di soldi è niente, rimane niente. Ho vissuto bene. Cioè, ti sei speso tutti i soldi che hai guadagnato? Devo lavorare. Beh, ma ho anche pagato le tasse, ragazzi. Per forza. Non è che non si paga. Cioè, quanto c'hai? Uno oggi dice quanto c'hai in banca? Ma già avrò 30.000 euro. Ma in tutto quanto hai guadagnato nella tua vita? Hai fatto un calcolo? Questo non lo so, questo. Che ne so, in euro puoi avere guadagnato 10 milioni di euro? No. Sì, penso di sì. Ma com'è possibile 30.000 euro? Ha speso, si è divertito, ha speso, ha comprato appartamenti, ha fatto crescere, che ne so, così, no? I figli, no? I figli, tre figli, situazioni. Tre figli, moglie. Totale, cose. Casino. Ciao Massimo, a presto, un abbraccio. Ciao ragazzi, ciao Massimo. Ciao. Allora, Franco D'Ancona, vai, Franco. Beppe. Dimmi. Sono straincazzato con quello che è successo ieri sera. Cioè? C'ho un ritorno sulla radio, sul telefono. Vai, dimmi. Allora, qualcuno ha detto che chi va a puttana è miserabile. Liguori e anche Parenzo, per carità. I nuovi moralisti, allora capito? I nuovi moralisti. Andare a puttane è nulla di moralista, cioè uno sfruttatori siete. Ma sì, che sfruttatori? Prego, parli sfruttatore. Posso prego parlare? Allora, prego, miserabile. Parli pure, miserabile. A queste persone dico che sono dei cialtroni da quattro soldi. Bravo, continua ad andare a puttane lei intanto, miserabile. Capito? Vada, continui, miserabile. Sì, altrettanto, lei è un cialtrone, a parte Parenzo. Questo, meglio cialtrone che miserabile. Mi fa parlare. Allora, il miserabile, sai chi è il miserabile? Te lo dico io chi è il miserabile. È chi è che va a pagare le donne tantissimo perché ci avete il portafoglio, allora quello non va a puttane, dici? Capito? Ma che dici? E vi vendete, vi prostituite sulle trasmissioni, sulle radio, sulle televisioni tutte le sere per vendere la vostra immagine. Voi non siete dei prostituti? Ma che dice? Ma questo è un altro discorso. Del paradosso, va bene. Questo ma è un altro... che dici? Allora sì, è una lavorazione, va bene, ma non c'entra nulla. Dovreste scusare, perché io mi faccio i cazzi miei, per favore, e non ho insultato mai nessuno. Franco, ma tu vai a puttane? Sì, vado a puttane. Quante e volte? Allora perché? Me li date voi i soldi? No, ma per carità, per me fai benissimo. Se allora ci vuoi che andare. Che cazzo vuole quello lì? Parla con Parenzo, continui, non parlare con me. A fare ma che ci parla fa? Che ha detto che la regione Sicilia deve prendere 1 miliardo che non c'ha un soldo ritirato. Contribuisca a sfruttare le donne. Bravo, bravo, le sfruttate. Contribuisca, se ne vanta. Lei pure, si sente di sfruttare. Perché voi siete sfruttati che ci avete il portafoglio pieno e vi date 10, 20 mila, 50 mila euro alla vostra collega, magari giornalista, poi vi sputtanate sui giornali. Voi quelle... non siete prostituti? Franco, fammi il piacere, va. Franco, un altro discorso. Io voglio capire una cosa. Tu, quando vai con una prostituta, con una puttana, pensi di sfruttarla? Ma no! Io ti dico una cosa. La gente è libera del proprio corpo, capito? Queste qua, molta gente, se sono fatti gli appartamenti in macchine di lusso. Capito? Ma non ho capito. Molta gente, cioè molte prostitute si sono comprate. Sì signore, e ti dirò di più, mi hanno raccontato che quando queste arrivano all'aeroporto, già ci sono i boss che li portano in albergo, quelle più belline, capito? Per questi si. Tu, pubblicità. Come siete pazzeschi, Giuseppe, sai che sono innamorato di te. La Zanzara. succede? Fermi, fermi tutti. Popolo della radio, sulla questione dei profughi, degli immigrati, il casino di Treviso con i cittadini che bruciano i mobili destinati ai profughi, a 100 profughi. Beh, caro Parenzo, l'opinione moderata di uno dei nostri editorialisti di punta lo potrei definire, Parenzo, eh? Non lo so, non so di chi parli, quindi Donato Barese, diciamo. Donato, buonasera. Ciao, ciao Cruciani, ciao, che dimmi, quello stronzo che sei a fianco lì. Sì, ciao, idiota, quello dimmi. Stronzo. Ciao, idiota. Calma, calma, calma. Stronzo. Ma io, Parenzo, fallo parlare. Io ho conosciuto l'odio quando ho sentito la voce di Parenzo. Io ho conosciuto invece la diarrea quando sento No, io ho conosciuto l'odio. Io vorrei sapere, io vorrei incontrare Parenzo. Guarda. Io no. Io Donato da Varese no, perché ho tante cose io vorrei da fare. E fargli capire che lui è completamente nato storto. Storto. Completamente storto. Completamente. Io sono di questa idea. Fammi sentire. No, ma per carità di Dio, il Corriere c'ha, ho detto solo questo, il Corriere c'ha Galli della Loggia sugli immigrati, Sartori, meglio Donato da Varese. Donato da Varese. Cazzo, guarda, io in televisione ascolto degli intellettuali che sono semplicemente titolari, ma sono dei miserabili. No, più idiota, ma chi? Questo. Fammi sentire. Ma no, ma un certo Gramellini, sicuramente quello strozzo su Rai 3, quella feccia, quella merda, ma l'ha mai visto adesso, quel Gramellini in quella Rai 3con quell'altro porco di faccia? Comunque io non voglio parlare di questi pusillanimi, io non voglio parlare di questi comunisti capitalisti di merda, di merda. Allora io voglio parlare di un'altra cosa, voglio parlare di quei mafiosi che gestiscono Triton adesso alla Sagampina della Mare Nostro. Sì. Io voglio sapere, da 7.000 anni non si è mai verato che l'Italia utilizzassero navi militari per importare i sunniti. Sono tutti sunniti, andate a indagare, sono tutti sunniti. E allora? Tutti, sono tutti sunniti che entrano in questo paese. Andate a vedere anche la storia di 100 anni fa, 200 anni fa, l'Islam era ridotto così in piccole zone della terra. Si stanno espandendo, stanno arrivando in Italia. Io voglio chiedere a un islamico, quali sono i suoi fini? Qua questa è terra anche mia, mio nonno è morto in guerra, voglio sapere un islamico che cazzo c'ha nella testa, mi devi dire che cazzo è venuto a fare qui in Italia, cosa è venuto a fare per atti in un'Italia dove è cristiana, dove c'è un Dio che la Bibbia definisce Yahweh, allora chi cazzo è Yahweh e chi cazzo è Allah? Me lo devono dire. Chi? Allora, un figlio non può dire di avere due madri. Su questa terra esiste un solo Dio per coloro che credono. Allora bisogna credere a un Dio soltanto. Allora l'islamico a me deve dire che il mio Dio non esiste. E se mi dice che il mio Dio non esiste, devo andare fuori da questa terra. Perché ci saranno conflitti pieni di sangue. Ci saranno noi abbiamo Israele. È un disturbato. Abbiamo Israele, quel porco petente che è accanto, non so è che cazzo è, se è un merda, se è una persona disturbata, ma che ha fatto? Lo diceva, guarda, no, l'ho letto prima sulla Repubblica. Israele. Ma cosa ha fatto? Su Repubblica c'era scritto che il caldo merda, provoca, no. Guarda, e c'era scritto prima su Repubblica. Ma no, ma di questa merda ce ne sono tanti. No, è il caldo, non è niente, è il caldo che colpisce le persone deboli come te, il caldo. Allora, questo qui è un paese cristiano, fondato. Certamente anche con una sorta di false devozioni fondato sul cristianesimo. Voglio sapere gli islamici che cazzo sono venuti a fare su questa terra, voglio sapere. Non so, allora gli islamici non sono i miei nemici, ma mi devono spiegare per quale motivo loro che non mangiano maiale, non credono nel nostro Dio, sulla Bibbia ci pisciano, entrano nelle chiese potrebbero cagare. Allora che cazzo sono venuti a fare in questo paese, me lo devono dire, che cazzo io nel loro paese, il fatto che ci sia là, che io non credo in Allah, io non credo nemmeno dell'esistenza di Allah. Quindi io non andrei mai nel loro paese, rispetto a là, rispetto a me, ma tu io vorresti cacciare un paese, quando un paese a 360 gradi è contro le mie le mie idee. Quindi a me gli islami mi spiegano che cazzo sono fatto. Noi stavamo bene fino a 20 anni fa. L'unica speranza è che gli venga un coccolone in diretta. L'unica speranza è che io a questo parco maledetto che ecco, dai, dai, l'unica speranza, così ce lo togliamo dalle palle. Scusami, Donato, no, no, Donato, scusami. Dai, dai, fai un bel respirone di quelli affannati tuoi. Perché tu sei dai, che così ci rimane un giorno di questi, va? Quel manipolo di persone che hanno il cancro addosso. Dai che ci rimani. Voi volete distruggere questa Italia. Voi sì, dai che ci rimani secco, bom, improvvisamente. Scusami, Donato, ma tu che faresti se fossi nei panni di quei cittadini di Quinto, di Treviso? Che io li prenderei, io se fossi Mussolini, che vorrei tanto essere Mussolini, perché Mussolini fu un grandissimo uomo, poi sbagliò, perché tutti gli uomini si sbagliano. Comunque Mussolini avrebbe preso questa gente, quattro cacci nel sedere, e andrebbe: andate ad ammazzare i vostri dittatori, se avete dittatori in Africa li andate, vediamo le armi, li ammazzati i vostri dittatori, però quelli che distruttono, hai capito? Non da, ci sono dei porci comunisti che dicono che l'Africa l'hanno completamente rasa al suolo, sì, gli occidentali. Ma io se vado in Africa, anche per dire con un capitale di 2 miliardi, a me non vai. Mi fanno entrare se il dittatore ti fanno entrare, fidati. Vai, i corruttori sono loro. Paghiamo i noi le carrette del mare, anzi in aereo ti mandiamo con la business class, ti mandiamo noi, dai. Donato da Varese, vai. Vabbè, vai pure, vai. In Italia ce ne costratte 200. Io sarei già morto. Vai, perché vai. Tu sei un purtroppo cancro. Hai vissuto sì troppo lungo, guarda. Ma è bello che tu hai vissuto già tanto. Hai vissuto già troppo, Donato, dai, su. Hai dato il contributo, hai vissuto già troppo, figurati. Ma è bello che tu non dai niente. Ciao, fermi tutti. Traffico veicolare. La zanzara. Io ho conosciuto l'odio quando ho sentito la voce di Parenzo. Guarda che c'è gente strana in giro. Appunto. Allora, Francesco da Vibo Valentia, però prima vorrei far ascoltare di nuovo quello che ha detto Liguori ieri. Miserabile chi va a puttane. Liguori, miserabile chi va a puttane. Voi che andate a prostituzione, vergognatevi, miserabili, volete pagare 100 euro per una scopata che costa molto di più. Convivete, sposatevi, corteggiate, fate un regalo, regalate un gioiello, offrite una cena, costa molto di più. Con le donne si fa così. Se si tratta le donne a colpi di euro, si è miserabili, non uomini, miserabili e per di più anche impotenti, secondo me. Io non ho mai sentito un cumulo di cazzate come queste molto, qua. Molto, molto bene. Un cumulo molto di giusto. Cazzate come quelle, guarda, pronunciate da Liguori ieri sera. Cioè, che poi tra l'altro dice che comunque le donne si pagano, capito? Che comunque c'è il corteggiamento. Ha detto una cosa molto più sofisticata. Aspetta, tenere una donna deve costare, senti. Che no, sofisticata, che sofisticata. Molto sofisticata, molto più profonda. Sì. L'uomo non si qualifica per il suo sesso, l'uomo si qualifica per il suo carattere. Sa che tenere una donna costa e deve costare. Perché deve costare conquistare una donna. Io non sono un miserabile, non sono moralista, però è chiaro che se trovo una ragazza facile per un'occasione posso approfittarne, ma se penso che tutte le volte con 100 euro, come un jukebox, metto a 100 euro perché costa poco, io sono un miserabile, un pezzente del sesso. Un pezzente del sesso, questa è la verità. E se costa 500 sono sempre un pezzente, perché quella donna mi costerebbe molto di più. Gli sfruttatori delle prostitute sono i clienti e gli altri sono solo trasportatori. Allora, Francesco, Vibo Valentia, vai. Vai, dimmi. La fondazione chiedo scusa, come si chiama quello che ha liberato i pazzi a Gorizia? Ti deve dare battaglia, ti deve dare un premio per tutte queste pazze che fa parlare, prima quello che credeva. Comunque sono di Pizzo, non di Vibo. Ti volevo dire una cosa, la proposta che ha fatto questo signore ex radicale Forza Italia, Quagliarello, della vedova, come si chiama lui? Ah, quello di legalizzazione della droga leggera. No, legalizzare è sbagliato, si fa un regalo alla malavita, bisogna liberarla. Ti spiego perché. Liberalizzarla significa che non è sanzionata, è libera, è chiaro. Non gli crei. No, ma è il contrario. Con la legalizzazione uno cerca di impedire. No, per l'amor di Dio, perché con la legalizzazione dice già si parla di venderla nei tabaccagli. E allora così, ama la vita senza che la vendere nei tabaccagli e ti taglia il prezzo a metà come i sigaretti di contrabbando. Se ti dico tre spinelli costano 10 euro al tabaccaglio, sì. Ama la vita te lo vendo a 5 euro. Ma tu com'è che sei così esperto? Perché io sono fumatore. Ma quanti anni hai? 57, 58 a maggio. Cioè tu a 58 anni sei fumatore, ma da quanti anni? Sì. Da quanti anni? Da forse 40 anni. Da 40 anni fumi hashish? Sì, no, erba. Erba, fumi erba. Io nel 1980 ho organizzato il primo festival dell'erba gratuito, 25 aprile 1980. No. E mi hanno mandato via dall'organizzazione politica che facevo parte. E come stai di testa? Prego? Come ti gira la testa dopo 40 anni? Qua, grazie a Dio. Lucido, in grazia di Dio sta dicendo, cioè sì. Stai alla grande. Che diciamo che oggi per esempio questo caldo a 40 gradi fumare era da folle. Se ti fossi fatto una canna oggi a 40 gradi che ti succedeva? È da folle, forse i ragazzini se la possono fare. Io a 50 anni non mi posso fare. Ma la quante te ne fai al giorno? Due al giorno. Una ma deve essere mattiniera appena ti svegli dopo il caffè, perché in quanto asmatico mi butto quel ben di Dio, quel paradiso terrestre senza chimica, senza niente, ti apre tutti i polmoni. La sera dopo una grande giornata di lavoro, io per scelta non ho televisione, perciò sento te, sento tutte, no? Sì. E mi metto lì, mi faccio una cannettina e mi metto a dormire. La mattina alle 6:30 sono sveglio come una zannetta, grazie a Dio, bello. Fresco. Ma tu non sei vero. Ma tu non sono vero. Tu non sei vero, dai. Ma Francesco, come non sono vero, Cruciani? Io sono il pescimento dell'altra volta che ti ho chiamato. Vedi come non sono tranquillo. Vero, sono mare. Vedi, ma non è neanche aggressivo. Ma che fai di mestiere? Che fai di mestiere? Il pescivendolo. Cioè fai anche il pescatore oppure vendi solamente? No, mi occupo di acquisti e vendita di pesce fresco. A 1000 euro, prodotto italiano. Hai una compagna, una fidanzata? Allora, delle donne sono stato sempre mandato via, però non sono andato mai da un psicologo. C'è una donna, una compagna, sì, chiaro. E con cui ti fa le canne o no? No, lei non vuole, mamma, mi incontro e non finisce mai. Non ho capito, scusa. Lei non vuole che fumo. Non vuoi, allora come cavolo fai? Ma faccio stesso, Cruciani. Beh, sei il numero uno. Ciao, Francesco. E qual è il problema? È una canna che mi faccio, non è che mi faccia la cocaina, che se la fanno tutta la cocaina e come i travestiti. Tutti la usano e nessuno lo dice. A me mi fa schifo la cocaina, per esempio, Cruciani. Beh, non me lo dire a me, io non l'ho mai provata in vita mia. L'hai provata tu? No, ma io mai, su Dio mai. Io sono. No, ma è bella quella metafora, cioè tutti quanti come coi trans. Come i travestiti, tutti vanno, no? Sì. E nessuno lo dice. Usa la cocaina, tutti la tirano e nessuno lo dice. E intanto se ne vendono, se ne ciao, vendono. Francesco, c'è il numero uno, ciao. Non è cambiato niente, io sono, cioè, sono passati gli anni e avevo un analista sia allora che adesso. E sono 6 analisti di distanza, ho 3 mogli al mio attivo e non riesco a mettere in ordine la mia vita amorosa. Io ancora mi piacciono le puttane, cioè ecco, io per me l'ideale è che tu le paghi e loro ti vengono a casa e non ci devi discutere di Proust, di film o di... Non lo so che cosa mi succede, io non... Vede, ecco, è che non sono mai cresciuto, mi sento, sa, non è che... Ecco, io vedo altri della mia età, io penso sempre a scopare ogni donna che incontro, ecco, dovunque, in banca, un'estranea, vedo una sull'autobus e penso, come sarà nuda? Chissà se me la posso fare. E, insomma, è una follia. Io vedo dei tizi che conosco che fanno gli avvocati, i medici, hanno famiglia, casa, e non sono così. Ecco, il presidente degli Stati Uniti vuole forse scopare ogni donna che vede? Cioè, ho sbagliato esempio, d'accordo, ecco... Ma io non lo so, ecco. Questa trasmissione è assolutamente geniale. State ascoltando un programma offerto da Stazioni di Servizio Costantin. Se ti fermi, ti conviene. La Zanzara. Io ho conosciuto l'odio quando ho sentito la voce di Parenzo. Allora, perché la Germania è un paese alla fine che fa i suoi interessi alle palle? Questo lo dico io, soprattutto la Merkel, la Peruna la può criticare, eccetera, però non si può dire che una che sia una che non abbia le palle. Allora, cosa succede? Ha fatto piangere una bambina, una rifugiata libanese, una ragazzina, Immaginate un politico italiano nella stessa situazione, cosa avrebbe risposto a una ragazzina libanese che ha pronunciato queste parole? Sono palestinese, vivo in Germania da qualche tempo, vengo da un campo di rifugiati nel Libano, vorrei fare l'università qui, ma non so se potrò rimanere. Sono molto preoccupata per il mio futuro, vorrei poter essere serena come gli altri intorno a me. Un politico italiano avrebbe risposto: ma figurati, faremo di tutto. No, avrebbe cominciato a fare un po' di propaganda su questa roba qui. La Merkel ha risposto in questo modo: sei una ragazza molto simpatica, ma la politica a volte è molto dura. Ci sono altre migliaia di persone nei campi di rifugiati. Se decidiamo di accogliere tutti, non saremo in grado di sostenere questa situazione. Posso prometterti che delibereremo presto su questo tema, ma sicuramente alcuni rifugiati dovranno tornare indietro. E lei si mette a piangere. Allora ripeto, ci sono altre migliaia di persone nei campi di rifugiati e se decidiamo di accogliere tutti non saremo in grado di sostenere questa situazione. Posso prometterti che delibereremo presto, ma sicuramente alcuni rifugiati dovranno tornare. Perché non c'è un politico italiano che abbia responsabilità? Alfano, perché non va in un campo profughi, per esempio? Alfano dovrebbe andare in un campo profughi, cosa che non ha mai fatto, credo, se non da lontano. E dire a questi signori le stesse parole. Mi pare di un cinismo. Ma quale cinismo? Cinismo la Merkel. Proprio. Ma grande, sì, civiltà, sì. Grande civiltà, grande civiltà. Senso delle istituzioni, paese serio. Paese serio, non si possono, non si può ospitare tutti. Testi in cui ma tu che puoi questo dire, è il buonismo, il solito buonismo, il solito buonismo. Bene la bambina che piange, quindi va bene. Ma no, ma no, la bambina mica voleva far piangere la bambina. No, no, ma quella qual è una conseguenza. Ecco, ma la conseguenza è pianta. Ma i bambini, possono piangere, però, sì. È permesso ai bambini di piangere, non si muore piangendo. Ti assicuro che non si muore. Ma si muore invece, al contrario, si muore se dà illusioni. Questo nessuno, sì, questo si muore. Nessuno vuole dare illusioni a quella numero bambina. Numero uno, questa frase della Merkel è da numero uno assoluto. Assoluto. Alessandro Preziosi sostiene, cazzata enorme, che c'è più amore tra due gay che tra un uomo e una donna. L'attore Alessandro Preziosi. Ma come? Io veramente, ma come è possibile uscirsene con queste cose? Questa è una stupidaggine. C'è da due uomini, amore in senso puro, dal punto di vista sentimentale, quanto oggi nella nostra società riescono a farlo un uomo e una donna. Nel senso dell'amore fra due uomini finisce per essere più destrutturato, meno legato a quanti soldi tieni, al ceto sociale, a chi è la tua famiglia, alla simpatia assurda. Invece due uomini che si vogliono bene, si amano, guarda, certo, a noi fa strano, farà sempre strano, perché poi ognuno c'è chi piace e chi no, ma la verità è che sentimentalmente sono persone profondamente più libere. Sì, preziosi queste affermazioni. Persone più libere, ma perché? C'è più amore tra due gay che tra un uomo e una donna, ma io dico che veramente la gente è impazzita. Vincenzo da Milano, vai! Ma scusami, hai visto? Sì, vai! La foto, hai visto la foto? Quale foto? La foto che circola, che si pubblica dal Corriere.it, di Matteo Renzi, sì, che si vede che non si fida molto del Presidente della Repubblica del Kenya, perché va lì e gli stringe la mano con un giubbotto antiproiettile. Una cosa straordinaria, capito? Visita ufficiale. Vabbè. Va dal signore del Kenya e gli stringe la mano con tutto allora, il giubbotto antiproiettile. Un mio amico mi scrive 15 giorni fa. Ho passato due giorni all'FKK, sai che cos'è l'FKK, Parenzo? No, italiano l'ho detto, FKK, è il simbolo di una sauna barra bordello in Germania, non solo in Germania. 15 giorni fa ho passato due giorni all'FKK di Francoforte, lui mi dice otto io conoscevo il PKK. Ma tu non sei un uomo di mondo. Otto scopate, mi scrive, è testuale, totale 400 euro con studentesse varie. che li usavano per le vacanze. Mi sento un benefattore. Puoi dire a Parenzo che la prossima volta lo portiamo, così rimuove quella sua omosessualità latente? Nessuno spiega al tuo amichetto che non è che se uno non va a puttane è un omosessuale. Cioè, spiegagli, diciamo, che uno può anche avere... Lui ha detto latente, ha detto latente. Ecco, no, ma spiega a questo simpatico tuo amico che va... questo miserabile... questo tuo amico miserabile che sì, un miserabile che va a puttane, certo, in Svizzera, quindi però in un bordello Svizzera o Germania, non ho capito, scusa. Svizzera o Germania? Francoforte, sono andato anch'io in quella FKK, non sono entrato. Va bene, ma se vi divertite va benissimo, è come andare al casino, va benissimo, lì magari c'è adesso più controllo. Adesso uno può andare manco in un bordello. Ma certo che può andare, lì ci sono, cioè, regole sei un miserabile precise, lo stesso. Ma tu stai facendo una distinzione. Se sono sfruttate, certo, sono sfruttate dal business del sesso, dal business se del loro sesso. Ma non avranno il magnaccio, non avranno. Ma chi te l'ha detto che non ce l'hanno? Se chi c'è te l'ha la detto? Volontà, ce l'hanno, quello che non c'è, quello legale, hanno il legale. Ma tu stai facendo una distinzione. Lui ha detto che pagare. Ma che c'entra quelle di strada e altre? Guarda, Vincenzo Damiano, io non do nessun giudizio morale Vincenzo, sulla questione, dai, per favore, non Vincenzo. Mi interessa la morale, Vincenzo, ognuno ha la sua. Dimmi, per favore. Niente, ti prego. Volevo che tu chiedessi a Parenzo, che io ancora non l'ho capita veramente, la distinzione che c'è tra quelli normali che vanno a Mignotte e sono dei miserabili, e Berlusconi invece che va a Mignotte allora, non è considero quelli che fanno, che usano, è uguale, che dai, se tu dici miserabile dovresti chiamare miserabile, no, anche Berlusconi, solo che non hai il coraggio di chiamarlo miserabile. Ma no, ma ho coraggio perché ti spiego perché poi non potete, spiegami, vedo spiegami, che non la pensate come me, ma, no, ma spiegami, bene, spiegami, te l'ho spiegata da due giorni, no, non l'abbiamo capito evidentemente, pare che non l'abbiamo capito, siete duri voi siamo in due, usate il pisello a pagamento, no, non usiamo nessun pisello a pagamento, chissà cosa fate pagando, no, ti assicuro. Ma se mi piace così, io pagando preferisco fare altre cose. Ma benissimo, preferisco portare. Ma tu sei contro la libertà? Preferisco, figurati, andare al cinema, preferisco andare a teatro, vabbè, preferisco andare in palestra, in piscina, pagando. Appunto, dopo di, non vi critico, voi andate nei bordelli, vi divertite, no, da andare nei bordelli. Sono andato solo due volte in vita mia. Ma vabbè, ma io non è che vi critico, è vabbè, un divertimento che non mi appartiene. Non chi invece usa e sfrutta la prostituzione da strada è un miserabile. Ma non c'entra, tu lo stai dicendo adesso per rifugiarti in una roba, perché hai detto chi va a prostituta è un miserabile. Bravo, questo generale, hai detto, non ti tirare, sì, indietro, non, dopodiché, ti tirare indietro, il merito è un buffone, miserabile, buffone. Ma comunque io penso che l'abbiate, la stragrande maggioranza, ma non ha capito niente, dai, Vincenzo, che volevi dire, la prostituzione da strada, ma che c'entra da strada, ma non l'hai detto, lo dice quello adesso, quello che è nei cosiddetti bordelli legalizzati hanno tu già più forme, stai dicendo, di stai dicendo che chi va a prostitute è un miserabile, senti, chi paga una donna è un miserabile, questo hai detto, io ho già spiegato una volta che sono a favore dell'apertura. Questo ragazzo lo scelgono come lavoro. Cioè, ma alcune dire... sì, altre no, altre sono costrette, ma tante persone sono costrette. Ci sono altre persone costrette a fare le cameriere. Ma quelle costrette hanno tutte le possibilità di uscirne con le denunce. Infatti, i primi tempi c'erano moltissimi. Ma che dici? Ma cosa stai dicendo? È un lavoro. Quelle sfruttate hanno la capacità di uscire. Sì, si prendono le corcate sulla testa, si prendono le bruciature di sigarette sulle braccia dai loro magnaci albanesi che voi finanziate col vostro uccello a pagamento. Ma quale uccello a pagamento? Non dire, possono tranquillamente denunciarlo. Hanno tutta la protezione della legge. Insomma, la cosa incredibile, la cosa incredibile è che fino al magnaccio, no, non è facile. No, non è facile. Che è facile denunciare il magnaccio. Chi ha detto? Lui lo sta dicendo, questo mica io. Dice. Sì, infatti qua sbaglia. Ma vedi che tu attribuisci a chiunque la parola miserabile, anche a chi va a cioè se io chiamo un escort stasera per telefono, che cosa sono? Miserabile? Ma no, se ti diverte chiamala. No, ma sono miserabile o no se chiamo un escort stasera? Ma no, posso darci un giù, se tu me lo chiedi, perché ti tiri indietro? Cioè, perché ti tiri indietro quando l'hai detto? Allora che cosa dici chi va a Io penso che chi va a prostituti, in particolare la prostituzione, quella sì, dove c'è lo sfruttamento conclamato, no, che lo è chiami? Quello da strada, c'hanno il patentino. Basta parlare con qualunque poliziotto che conosce la situazione. Vabbè. Penso senti, sia se devo andare miserabile a Mignotte, non vado a sentire un poliziotto prima. Giorgio penso da Rimini, sia dai un miserabile. Bene, Giorgio da Rimini, dai. Ma basta andare sulla Salaria per dire zone di Roma. Diciamo. Pronto, ciao. Vogliamo ciao, prendercela pure con quelli che vanno sulla Salaria a Mignotte. Prendiamocela anche con quelli. Sì, ti sento, dai, Giorgio, dimmi. Ah. Hai esordito questa sera? No, però non sento, Giorgio, mi devi agganciare bene quello che hai. Forza. Okay. Mi senti adesso? Sì, dimmi. Ok. No, questa sera hai esordito con Woody Allen, ok? Poi ho sentito il tuo caro Parenzo, che adesso lo mando a fare in culo dritto per dritto. Allora, premetto, io buonasera ho una città dove ho 14 operai. una vita seria, lavoro da tanti anni. Vabbè, dunque che c'entra? Ce ne frega della vita seria? Bravo. No, lo mando a fare in culo. Ma che c'entra questo? Alla tua... No, stai un attimo. No, dico perché che persona sta parlando in questo momento. Perché, uno che ha una ditta, siamo felici per lei. Ma perché lo vuoi mandare a fare in culo? Spiegacelo. Lo mando a fare in culo perché quando lui ha fatto... Oh, oddio, 100, oddio, 200. Tu gli hai detto, scusa, ma tu, David, li prenderesti nel tuo condominio 10, 20, 40, 50 profughi? Ma figurati, se un condominio di prati uno prende 100 profughi, dai. Non ti ha risposto. Cosa dite? Posso dire un'altra cosa? Avete tirato in ballo il sindaco di Treviso. Ah, ma sai, tu sei un sindaco, non sei il Mimuma. Allora, te lo dico io chi è il Mimuma. No, sono Bimbumba, io del Bubu, vabbè, ok, va bene. Vabbè, allora? Ok, ti dico io sono una persona che ho 14 dipendenti, di cui uno ha un malese che è arrivato con i balconi 4 anni fa. La persona più squisita che c'è. E questo non è un vanto, però tu non rispetti nessuno. Caro mio David Parenzo, ma io rispetto tutti, però ho idee diverse. Quando uno mi offende, poi attacco, ovviamente. Non è che mi faccio prendere a schiaffi gratis. Tu hai qualcosa dentro? E purtroppo è impossibile togliertelo e mi dispiace. Io Giuseppe nel campo sì, ma non ho capito che cos'è che non condividi, però Giorgio ancora non l'ho capito bene, cioè non condivido la sua superficialità quando parliamo di cose serie, e il talk show della Zanzara mi piace. Vabbè, ciao Giorgio, ciao. Ragazzi, quando dovete attaccare qualcuno, concentratevi su una cosa, però, non è che potete parlare così genericamente. Attaccate Parenzo, attaccate me, attaccate Parenzo. Dite, hai sbagliato a dire questo, non la supponenza, l'arroganza. Hanno realizzato per noi schegge impazzite, Roberto e Andrea. Dove sono andati? Sono andati in una piazzola di un'area di servizio a verificare se ci sono omosessuali a caccia. È uno degli interrogativi storici che da sempre accompagnano la Zanzara. I parcheggini dell'autostrada sono pieni di gay. Stanno lì fuori a aspettare che tu vai a fangoscio d'acqua per guardarti, te guardano. Ma chi l'ha detto? Ma lei, Fabio, è malato di mente. Ha bisogno di cura. Perché gli autogrill sono pieni di uomini che cercano altri uomini? Prima di andare a verificare, ci siamo documentati su internet. Certi commenti lasciano ben poco spazio all'immaginazione. Manuel 80 scrive: questa mattina alle 11 nei parcheggi intorno all'autogrill c'era parecchio movimento e un uomo, fermo in macchina, è sceso e mi ha fatto un delizioso pompino. E altri giravano e guardavano. Ma l'approccio reale come avviene? Abbiamo deciso di fare un giro negli autogrill del grande raccordo anulare di Roma. Essere abbordati in autogrill è facile. Basta stare fermi in macchina e aspettare. Ciao. T'ho visto che passavi. T'ho visto che passavi. Cerchi compagnia? Ma pagamento gratis? Che pagamento? Gratis. Ma qua tutti questi ragazzi che girano sono tutti... Vogliono il maschio, hai capito? Vogliono tutti il maschio. A bussarci è un uomo sulla settantina. Cosa vuole? Il maschio. E allora iniziamo a chiacchierare, cerchiamo di conoscerlo meglio. C'è anche un amico mio qua che sta girando, sta cercando. Ma sì? A lui? Sì. A sta con te lui? Sì, quello con la barba. Sì, sì. Ti piace? Mi piace. È un bel ragazzo. Che mi dici a fare? Però sai, siamo molto timidi perché è la prima volta, davvero. Abbiamo letto questo autogrill. La prima volta, dai. Insomma. Sì, la prima volta. Autogrill è la prima volta. Ma dove vai se no? Non ci stanno i posti, non c'è più tanto da. Polizia, niente. La voglia se passa. Apposta, devi stare molto attento perché mica è facile. Quando si va al bagno? O sta dentro la macchina, o se no c'è un parchetto qua dietro. Come fa bene l'amore? Come fa bene l'amore? Tu come l'hai conosciuto sto posto? È stata una volta che sono andato al bagno e ho visto che c'è tutto un movimento, insomma, difficilmente. Ma sei sposato, c'hai... Certo, sono sposato, sì. Sei sposato? Ah, quindi è una cosa nascosta. È bravo, hai capito, sì. Non sono libero come voi. In effetti è pieno di uomini soli in macchina e di altri che passeggiano, soprattutto vicino ai camion in sosta. I camionisti sembrano prede molto ambite. Ci sei mandato dai camionisti? Che ti hanno detto? Niente, siamo divertiti e basta. Ma tu sei bravo, sei uno bravo. Ma come hai fatto col camionista? Niente, siamo saliti sopra e ci siamo divertiti. Cioè tu gli hai bussato? No, no, è stato, già era aperto il finestrino, non è che ho fatto il bussato. No, io non mi busso perché assolutamente... Se arrabbiano, no? E beh, cioè può trovare anche la persona che può dare anche qualcosa in testa, insomma, hai capito? E da quant'è che c'hai questa passione? Dopo i 50. Insomma, il nostro amico ha 70 anni, è sposato, ha dei figli, cerca sesso con uomini in una piazzola di servizio del grande raccordo anulare. Vi chiederete perché lo fa? Ma vuoi, ti stanca anche la pregna in un certo momento, capito? T'ha stancato la pregna. Marco dalla provincia di Cosenza, hai capito perché vanno nelle piazzole, Parenzo? Sì. Beh sì. Marco, provincia di Cosenza, vai, dimmi. Eccomi. Niente, io volevo parlare per quanto riguarda l'intercettazione del presidente della regione Sicilia. Vai, vai, dimmi. È quella, mi sembra veramente un'ipocrisia, perché poi tra l'altro quelle cose non l'ha detto lui, ma l'ha detto l'interlocutore. Per cui parlare di dimissioni, e mentre invece si fa... finta di non saperlo, di non sentire sulle altre intercettazioni, tipo come dicevi tu bene di Renzi o addirittura sì, io. Ma io sono d'accordo con te, Marco. Io non sono d'accordo sul fatto che, per esempio, anche a Roma, scusa, il sindaco Marino, no? Che si dice che bisogna fare la commissione. Sì, ma quello è un altro discorso, perché si è indebolito molto. No, fermo un attimo, che devo chiudere. Marco, fermo che devo chiudere. Il problema fondamentale è un altro su Crocetta. Allora, se lui pensa che tutta questa roba qui sia una macchinazione, inutile che dice, o comunque una cosa contro di lui politica, inutile che dice mi autosospendo, perché l'autosospensione è un istituto che non esiste. Si deve difendere dicendo io non ho fatto niente di male. Primo. Secondo, ripeto, non è che il PD se la può prendere sulla base di un'intercettazione con Crocetta, mentre invece l'intercettazione di Renzi dire che è una specie di racconto fantasy, eh? A domani 18:30, ciao! Per me l'ideale è che tu le paghi e loro ti vengono a casa e non ci devi discutere di Proust, di film o di... Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, so, alle 8, lei ha ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Io ho conosciuto l'odio quando ho sentito la voce di Parenzo. Radio 24. La passione si sente.